Sì, pure qua era fondo scala. E allora sto guardando, non me la portate. Arrivava a fondo scala qua. Oh, magari, magari un bambino che ha premuto il PTT, che ne so. No, ma dove volevo arrivare io? Oh, già che abbiamo parlato in due con Natalino prima, allora. Oh, vado. Ho detto che ammazzare un uomo non è roba da poco. Uno non è che per il suo quadro disordine in casa o perché ti ruba merce da pochi euro puoi ammazzare. Se si avventa a un conto, allora è campo libero. Oh, adesso, solo entrando nella porta e non si è invitato, si è autorizzato a sparargli. Anche se non è armato, che cazzo te ne frega che sia armato? Sì, ma Natale, io so, però a parole è facile, ma poi se succede, farsi tanti di quei casini, magari sì, loro dicono è un atto dovuto, però indagano, processi, così, poi magari riconoscono cosa che si è assolto, solo che se già non è armato di suo, non lo so come va a finire. A parole è facile, ma poi i tribunali sono uno schifo da noi, cioè. E infatti, perché poi le leggi le fa l'interpretazione, non le basi come sono, lo interpretano a secondo dei casi. Invece la legge va applicata, non interpretata, capito? Tu interpreti i bargazzi lui, no, paghi sui riguagli alla legge. La legge va applicata, infatti stiamo andando a catafaccio, proprio per quello, perché la legge non va interpretata, va applicata, che è diverso. Infatti, vorrebbe più dura per quelli che fanno queste cose qua, no, gli arresti oggi e domani sono liberi, non rimane di nulla. E appunto perciò stavo dicendo così, va applicata la legge, ci deve essere la certezza della pena. Tempo fa avevano messo, non so se l'avete visto su internet, dei ladri che sono entrati in una villa Sant'Orsola, si vedevano loro, perché sono stati filmati dalle telecamere, si vedevano loro mentre aprivano gli armadi, buttavano la roba in terra, guardavano, controllavano, aprivano cassetti. C'era tutta la mattina questa macchina scura che girava, l'hanno vista in tanti, sicuramente erano zingari. E a chi ti dentano, non lo sai. Cazzo, ma giusto ti sembra, io ho visto tante fotografie di questi vecchietti che gli gonfiavano la faccia, ma li facevano a beffa, picchiati, seviziati, poveracci, guarda. Mi vasiano una bene a me, cazzo. Se uno entra in casa mia, cazzo, gli sparo in bocca io, e boh. E da voi cacci la frutti della legge, nel momento agisci così, agisci d'impulso normale, cerchi di difenderti. E comunque, speriamo che non succeda mai perché sono così brutte. Guarda, questi vecchietti li hanno gonfiati malamente, tu li devi vedere come gli hanno fatto la faccia a certi vecchietti, poveracci, mi facevano una pena a cazzo. Che guarda, in televisione mi li hanno fatti vedere. Cazzo, perché quelli sono i rumeni, mia, lo sa quanto picchiano, quelli lì cazzo ti fanno una beffa se entrano in casa tua. E questi vecchietti, cazzo, hanno subito, ma subito forte, oltre che ci rubano la cosa, ti gonfiano pure. Io ho un amico che fa la guardia giurata a Orezzo, vicino a Treviso, e dice che a questo collega l'avevano messo in questa fabbrica di notte a controllare da solo, in questa fabbrica grande, e praticamente lì c'era anche la casa dei proprietari eccetera eccetera all'interno. Poi lui stava facendo il giro e praticamente si sono messi sul tetto della casa, quando lui è passato li sono saltati addosso, l'hanno disarmato, picchiato, l'hanno lasciato mezzo morto in terra, hanno rubato tutto ciò che c'era. Ah no, però più pena mi fanno quelli che non si possono difendere, tipo questi anziani qua che ti entrano dentro casa, ti picchiano forte e te ne rubano quanto c'hai. Stanno facendo anche truffe, magari vanno con la scusa che sono praticamente dell'SL, che stanno facendo le analisi gratis, eccetera, eccetera. E praticamente questi qui ci credono, uno fa finta di misurare la pressione e cose, l'altro fruga, capito? Vale le camere fruga. Ma almeno non ti picchiano questi, invece i rumeni ti chiudono i porti e te ne curano i cantuvai, ti fanno dire dove sono i soldi proprio. Cazzo, marito e moglie tutti e due cazzo gonfiati, cioè, guarda, se vedi come gli hanno fatto la faccia a questi qui, qua, ti ne parlano i lacrimi a pazzidelli. Li ho visti, sono erano tutti tumefatti in viso, sì, li ho visti. E da lì, gente delinquente, cosa pretendi da questa gente qua? E se ti sto dicendo, questi rumeni e albanesi sono specializzati, c'era un periodo che vedevo sempre questo camper a Porto Torres nel porto, che non avevo mai visto, sai, passarlo 2, 3, 4 volte, noti le cose, anche non volendo le noti, dicevo, cazzo, questo camper c'è già una settimana, e beh, cosa ci avevano? Ci avevano una centrale dove praticamente clonavano le carte di credito, avevano messo le telecamere di tutte le banche che c'erano a Porto Torres, quando tu andavi a prelevare ti rubavano il numero che tu digitavi e facevano le carte e si ritiravano i soldi, capito? E se li spendevano in Spagna, da tutte le parti, capito? A una mia collega gli hanno rubato 10.000 euro, però per fortuna la banca li ha tornati perché l'ha assicurata. Figurati. Questi rumeni sono degli animali, sono, non sono neanche persone degne di questo nome, animali proprio, perché entrano da tutte le villette isolate in continente, entrano e fanno un macello. Poi sono specializzati queste cose in furti, per duplicare le carte, tutte queste cose, sono specializzati. Inserire telecamerine che non si vedono nemmeno, inseriscono queste telecamerine e poi copiano i numeri e ti vuole divinare. Sono specializzati, sono persone intelligenti, non sono macchi, ne sanno loro, il fatto loro lo sanno, capito? Però in ogni caso sono delinquenti, sono delinquenti. Qua siamo circondati da queste persone qua. E comunque mi piace. Cazzo, tra negri e rumeni, cazzo, non sai che erano migliori. E quelli che fanno i giri di soldi, cazzo, vanno alla casa, non è che mi cambia 100 euro. Poi li facevano dei giri, confondevano la commessa, si facevano ridare i soldi, capito? Dicendo che io gli ho dato questo, lui dopo gli ho dato l'altro, la confondevano, cazzo, e si facevano dare altri soldi, capito? Riuscivano a raggirarli in un modo strano, capito? Sì, già lo so. I ricchi di Manelli non inventano i ricchi. Uno ne scendo, cazzo, noi veniamo in Italia perché ci danno i soldi, ora faccia. Lasciamo perdere, va, sorvoliamo. Cazzo, a Giorgio, quel dirimpettaio mio, quel medico, quel giovanotto, a quello lì, cazzo, gli hanno rubato la bicicletta legata con un coso d'acciaio, beh, sono andati con la Drunchese e Virani dagli Addu, e mi hanno curato la bicicletta che la trattava per andare a travagliare, dice, poveraccio, ma dimmi tu. Che è successo? Lì sarà qualche alienone che l'ha rubata perché loro vanno in bicicletta. Hanno sentito a Torino che l'altro giorno davanti a lui gli hanno arrestato uno di quei negri, vicino al tabacchino. Sì, me l'hanno detto, che hanno arrestato, l'hanno messo in terra e l'hanno buttato in manetta. E lui diceva che c'aveva il metadone, non è metadone, no, quello, dice cocaina, non è metadone. Questo metadone non è metadone, vai, aiuto, carica in macchina. E Torino stava, era lì fermo davanti, se l'ha visto proprio davanti arrestando. E infatti, perché qua, cazzo, si mettono a spacciare, cazzo, alla luce del giorno, l'ho visto io spacciando davanti, dove c'è quello dell'aria condizionata qua, quel negozio. Cazzo, erano spacciando in Chivi. In faccia al pubblico, alla gente, cazzo. Non ne ha fatti nulla a me, di guasi, di va. in pubblico, si mettono e spacciano. E hanno capito che fanno i soldi così, capito? Quindi loro sono specializzati, ma li stavano anche pagando per bruciare le macchine, dice che davano 100 euro, andavano e bruciavano le macchine. Insomma, un po' di tutto c'è. Prima noi non ne conoscevamo di questa delinquenza così da lì. Io lo sentivo da mio zio quando veniva dall'America, da Detroit, che scippavano anche le persone a piedi, e mi ha detto che ha visto uno scippo lui che da un marciapiede all'altro erano in due, hanno scippato questa donna, stava attraversando la strada, questo qui con la borsetta, passa un camion, la bisa di pelo, l'ha ammazzato. E io quando sentivo queste cose mi sembravano cose dell'altro mondo, capito? Perché io qua non ne sentivo mai. Beh, un euro, no, che cazzo, chi è riuscito a sfuggire alla polizia, se n'è scappato, non sono riusciti a beccarlo. Ma già lo riconosco, già lo trovano pure, già lo fotografano bene. Cazzo, se ne è fuggito, cazzo, questo scippava le zippe, le donne, no? E se ne scappava, col cazzo lo trovava poco curria. Correva con tre gambe. Vabbè, che questi nienduli sono tutti uguali, non li riconosci, boh, io perlomeno quasi tutti precisi sono. Eoia. Poi li vedi spavaldi, cazzo, con i pantaloni varavara, che si rivede tutto, ma io... Prepotenti, prepotenti. Ehi, vengano a fare il prepotente dal sottoscritto, che è già... Cazzo, non so cosa intendi qualcuno. Che venga a fare un prepotente bocu bocu. Ti ridimo, va. Successo, già stiamo finendo bene, continuate a fare arrivare sbarchi, cosa altro che sì, rifugiati politici, una mazza. E Salvini a che avvimenti le barche furi, cazzo, l'hanno inquisito, cazzo, per sequestro di persona, ma dimmi tu, questi giudici vogliono i biliardi e mochi, buoni, cazzo, 15 anni di galera a rischia, perché stava fermando gli immigrati. Cioè, praticamente se tutta l'Africa, hai visto, tra ci sono anche guerre tra, come dire, tribù o rivali, no? Sì, può essere uno Stato contro l'altro, una regione contro l'altra, una tribù anche contro l'altra, no? Praticamente se tutta l'Africa, che cosa che sta avvenendo piano piano, è in guerra, c'è gente che fugge e viene da noi, e l'Europa diventerà un bordello con l'Africa. No, siamo già diventati un bordello, perché vedrai che da padrone diventiamo ziracchi, verranno a comandare loro e noi a essere sotto di loro. Comunque, sì, ha ragione Gianni, a me questi neri sembrano tutti uguali, a meno che non li vedi proprio da vicino vicino. E i cinesi lo stesso, a me sembrano dei cloni, tutti uguali, non saprei distinguere chiaramente uno dall'altro. Come si chiama? I senegalesi sì, perché io avevo amici senegalesi ed erano ben gamba, sono bravi, però questi nigeriani, sommari, il raio, che sono tutti spacciatori, prostituzione, tutte queste cose qua, ce le hanno loro in groppa. E diciamo che i senegalesi sono più portati a fare la vendita, a guadagnarsi il pane. C'era Barri di Buco, a Platamona parlava sassarese meglio di un sassarese, lo sa. E quello scherzava con tutti, capito? Scherzava con tutti, era bravo. Dice che un giorno è entrato in un bar e dice che si sono messi a dire non niente, entrando, chiso, guidato, queste cose non mi piacciono, Gianni mi ha detto. Io sono amico di tutti, però non mi devi offendere, queste cose mi fanno imbestialire, mi ha detto. Se lo dici in faccia lì, sul momento, però poi non è che vado a offrire le persone, questa è una cosa che diciamo tra di noi per la verità, noi non siamo razzisti. io perlomeno non sono stato mai razzista, e anzi io conosco dei senegalesi che sono veramente bravi e travagliatori, però i nigeriani sono un'altra razza, sono delinquenti, magnacci, spacciatori, tutti rimari di Diaghiri Galaniedi. Poi ci vedo dalla faccia, dalla faccia che c'hanno, la faccia cattiva proprio, delle persone proprio di quelle cattive. E poi magari ci sono anche quelli bravi, però la maggior parte che ci sono qua sono così. Tutte le prostitute sono nigeriane. I magnacci sono nigeriani, ma questi nigeriani ce l'hanno nel sangue la delinquenza, capito? I senegalesi sono quei negri bravi, gentili, travagliatori. A chi vuoi sumare, è un giovanotto, il conosco, che un iadissimo mese è andato a travagliare, poveraccio, è intelligentissimo, gentile, cazzo, guarda, pure di dinà, se voglio mi presta di dinà a me, il suo senegalese, è proprio di lusso, invece i nigeriani sono tutti delinquenti. Però c'è il però, perché dici i nigeriani sono cattivi e i senegalesi no? Bisogna vedere tutto, sai, l'epoca del colonialismo, gli inglesi che andavano a fare il proprio comodo, a opprimere la popolazione locale, a sfruttare le risorse minerarie se ce n'erano, e così incattivisci i popoli. Tu poi guardate il Messico, ci sono certe città dove, tipo il Ciudad Juárez, dove c'è una violenza, ma anche questi stati, El Salvador, Nicaragua, tutti i posti dove ci sono stati gli spagnoli che hanno fatto la padrone, che hanno massacrato gli indios locali, e furia di incattivirsi per queste azioni fatte dagli occidentali, perché è sempre stato così, e lì è nata la violenza in quel modo, e è però rimasta la violenza, così anche in Nigeria. Ma è una cosa loro quella, non puoi venire qua a fare la prepotenza, fare quello che vuoi, casa d'arte, ma stai scherzando. Loro, se sono violenti, se ne siano nei loro posti, e la violenza la fanno dove abitano loro, non qua. Sono affaratori, sono persone da scartare proprio. No, io non sono razzista, perché io ho amici di colore, che so, c'è Omar, uno che veniva fuori del negozio nostro, quando passavo mi diceva Gianagnelli si metteva sempre a scherzare, capito? Sì, di la tua. I nigeriani non venuta di là, sono prepotenti, e guarda, se erano voluti come i senegalesi, sono bravi veramente, travagliatori buru. Vabbè, però vedi, con la storia del colonialismo, per esempio anche gli Stati Uniti, che si fanno tanto grandi, gli americani qua là, erano coloni inglesi, non solo, sono andati lì, hanno trucidato la popolazione locale, gli hanno rubato le terre, li hanno relegati nelle riserve, poi sono riusciti piano piano a fregarli anche quelle, quindi spostandoli all'infinito da una parte all'altra. E vabbè, lì praticamente gli indiani non esistono più, ci sono poche riserve, però è facile fare una nazione grande sulla pelle degli altri, cioè loro sono andati in casa loro, li hanno trucidati, rubato tutto, deportati in ogni modo, e gli americani sono andati da quello, tutti che fanno i paladini anche della giustizia. Gli americani lo sai cosa sono? La feccia dell'Inghilterra, è gente che è stata espulsa dall'Inghilterra. Infatti si diceva, un po' era vero, un po', però poi c'erano i coloni che comunque volevano cambiare vita, volevano comunque avere nuove terre da coltivare, eccetera, vabbè, quelli erano quelli buoni. Ma anche in Australia è così, in Australia molte zone erano nate come colonie penali, cioè dove relegare gli indesiderati dell'Inghilterra, e così un po' gli Stati Uniti. poi vabbè, non è solo così, però ha contribuito anche quello. Un attimo, dai, che devo andare a piccare il cane, che non mi sono accorto che era così tardi, dai. Ci sentiamo ragazzi, non continuo qua, se io sto chiudendo, dai. Ci sentiamo alle prossime, ciao! Ciao Gianni, dove stai andando? A portare il cane. E che se ne frega? Ciao, già sto scherzando, ciao. Tu Gianni, lo sai che io ti amo, tu mi ami? Forse sei stata una bella donna, magari sì. Ma io, se mi faccio una donna, sono una bella donna. Però con la sorpresa. Perché gli scherzi, tu l'hai già portata Diana, sicuramente. Via, ciao Gianni, ciao Marco, dai. Buona cena. Ma ne a me non mi saluti, ciao Gianni. Vedi, e poi dice che sono io, Pocuoma. Ciao Natalino, saluta la Concetta, ciao. Dai, sto chiudendo che ho fame, ciao. Ciao, ciao, vai a mangiare, vai. E io, buon appetito, Luca. E quindi così è Natalì. Vabbè. E quindi il senso era quello, i nigeriani, cioè, non credo che siano nati cattivi, si saranno incattiviti con... Sì, poi conflitti d'oro, ma anche praticamente gente esterna che faceva il comodo a casa loro all'epoca. Può anche darsi che tu abbia ragione, però i nigeriani sono così. Perché io ho visto i senegalesi che sono tutta un'altra razza. Il Senegal era stato sotto il coso francese, no? Comunque... E lì boh, è andata meglio, non lo so, forse hanno saputo più integrarsi loro, non so come sia. Fatto sta, è stato un casino, là. Dove ci sono stati gli inglesi? È successo il macello. I senegalesi parlano francese e arabo. Oui, c'est moi, buonasera. Buonasera, stavi seguendo Tino? Un pezzo della popolazione negra. Sì, certi si sono incattiviti perché anche gli europei hanno fatto il proprio comodo, gli hanno regato terra, oro, risorse naturali, tutto, e così fa incattivire una popolazione che poi rimane cattiva nei confronti degli occidentali. Sì, guarda, io ho avuto un'amicizia, oddio, una persona che lavorava in azienda dove lavoravo io, una brava persona, giustamente da due ciuffi non ne puoi fare un fascio, però forse credo che sia raro la persona come quella che ho conosciuto io, perché era umile, un bravo ragazzo, bravo anche lavorando, voleva lavorare, voleva guadagnare, non pretendeva niente. E quelli che avevo lì, se sono vecchio, sono dei randaggi delle persone che ne approfittano della gente, spacciatori e tutto di più. Tu vedi, c'è Natalino che è cuocomane, lui con la richiesta di Borotalco per naso fomenta questi a spacciare, vero Natalino? E allora, io direi con tutti i mari, sai niente. Natalino sempre, come si dice, la moto vedetta quando vede i barconi deve sparare, non devono avanzare a venire in Italia, e vabbè, quello non si può fare, però qua già siamo messi abbastanza male. Però se qua continua a venire davvero tutta l'Africa, poi viene la parte peggiore, cioè quelli che hanno i soldi, magari imprenditori, gente che lavora, come ha detto Tino, gente onesta, magari se ne sta pure in patria, o comunque esce per lavorare, va a lavorare con aziende, imprese che lavorano all'estero, ma la parte più cattiva, più sbandata, più disperata, dove viene? In Italia, e beh, tanto è prima di tutto è terra di approdo lì, come viaggi dall'Africa, e poi qua hanno campo abbastanza libero perché... E diciamo la polizia non è che può fare come fanno in certi stati che ti sparano direttamente addosso, capito? Qua vedono che c'è, non dico per emessivismo, per le leggi ce l'abbiamo, però vedono che sono molto meno hanno campo libero, mi non so come dirlo, tiro, riprendi. Marco, allora, facciamoci una domanda e diamoci anche una risposta. L'Africa quanto è grande e quanto è grande l'Italia? Questa è una domanda stupida, però se la metti in opera ti rendi conto che è inutile che vengono, poi noi faremo la fine di loro, noi ci andremo in Africa praticamente, perché non ci saremo più qua. Ma il problema è che ne approfittano, perché, come hai detto tu, la giustizia non può fare niente, non le fa niente, loro ne approfittano in tutto e per tutto, anche quando per dire ci prendono il tram, gli dicono di pagare il biglietto, loro non pagano, chiamano i carabinieri, cioè hanno questa prepotenza che purtroppo a noi ci dà fastidio, perché noi non siamo così, giustamente, capito? Un capitolo che è duro da mandare avanti e da capire, però chi ci mangia sono sempre i soliti ignoti. Sì, non tanto ignoti, o sì. Sì, vabbè, sappiamo chi sono, però giustamente, allora va bene, noi siamo dei pecoroni, ci siamo zitti e li facciamo fare quello che vogliono loro. Guarda in Francia se succede così. Sì, lo stavo per dire io, vedo in Francia che stanno ancora picchiando solo perché gli vogliono aumentare l'età pensionabile a 64 anni. Noi l'avevamo già a 67, ci siamo cagliati muzzi con tanti, come se tanti biguri. Io mi vergogno, guarda, a un certo punto di essere italiano. Ma guarda, io l'ho sempre detto, io non sono italiano, io non mi reputo un italiano, io sono nato in questa terra, mi reputo sardo, ma non italiano. Sì, infatti. Perché loro, come dico, sardo è tonto, quello è qua, vabbè, io sono sardo, sono tonto, sono tutti voi, sono nel reputo italiano come volete voi. Purtroppo però devo fare le cose, perché sono se è un delinquente, se non ti arrestano, se non fai, poi ognuno è libero di fare quello che gli piace, con la propria testa ragiona diversamente. E infatti io. A un certo punto uno si vergogna pure, gatta, non è possibile, tutti questi cosi che so, ne abusano questi qui, gatto, sono arrivati a dire, gatto, noi veniamo in Italia perché ci danno i soldi, con la faccia di quelle donne di malaffare, per non dire altro, in televisione si duvicchia, e ha detto di così, chiedi in Italia venne ma cosa gli dà di noi di là. Ma è giusto, perché purtroppo glielo danno e tu cosa fai, non ti riprendi. Anche quello che fa per dire a prendersi, mangiare, che poi quanto ne hanno provato, buttato in mezzo alla mondezza e la gente morendo di fame. Infatti, proprio per quello. Questa mattina sono passato lì dove danno un rancio ai disperati. Anche loro vanno lì a prenderli, giustamente, però chissà se lo mangiano o se lo vendono o lo buttano, questo io non lo so, non l'ho seguito, però ho visto che lo stanno prendendo. Ma cosa vuoi ti dica? Vabbè, dai, si è fatto tardi che al limite ci sentiamo alle prossime, dai, io me ne vado in QRT, ci sentiamo alle prossime, dai. Va bene, Atari, ci si ascolta, ciao, buona carica, buona notte quando la farai e tutte cose. Ciao Marco. Io sono entrato, mi aveva chiamato mamma per una cosa. Ciao Atari, buona cena, buon tutto. Purtroppo è così, poi non capisco queste ONG, cioè vanno a prenderli direttamente dalle coste della Libia, come iniziano il viaggio, vanno a prenderli a domicilio e li portano qua, poi dicono che li hanno salvati, danno non so cosa. Ma poi non ti sembra strano che quando sanno che c'è il mare in tempesta iniziano i viaggi lo stesso, perché sanno che ci sono le navi ONG già pronte a prendere, e lì ci sono interessi forti però da parte dei, come diceva Natalino, i soliti noti, non so poi cosa ne guadagnino a tutti gli effetti, però è una situazione che va a degenerare alla lunga, alla lunga. Marco, poi non ci saranno più, non è che voglio dire, vabbè che sono abituati a vivere in 20, in 30 in una cameretta, magari dormendo anche in piedi, però poi a fine dei conti, voglio dire, il popolo si sta sempre aumentando, ma non la nostra generazione. Non è preso i razzisti, però voglio dire, non è la feccia della di Sassari c'è. Vabbè, pazienza, chissà cosa vedranno in futuro, fra 50 anni, 100, boh, se ci arriviamo pure. Ok, scusate un attimo che se mi sono distratto un attimino, ho perso il filo anche. Fa niente. Io sono entrato ma non so neanche chi c'era, c'eri tu, Natale, chi c'era anche Gianni? Sì, Gianni ha chiuso un attimo prima, doveva portare il cane, Luca aveva fame, si è intanto a salutare, poi è andato a mangiare, eccetera. Poi da cosa siamo arrivati al discorso non lo so, dalla violenza, dalle rapine, sai, che ti entrano in casa, io dicevo, non è che puoi ammazzare un uomo per un videoregistratore prodiato che varrà 10 o 20 euro, perché magari se lo sta rubando e sta scappando. E lì se vedi che si avventa, allora è campo libero, ma se no non... Eppure certi dicono come passa la soglia e li sto sparando, e poi però lo sai, casini, processi, così, cioè non è così come dice magari Natalino, ti fanno un casino di processi, poi a seconda di che parenti trovi ti fanno causa che gli ha ammazzato il marito, e certi giudici gliela fanno passare per buona e devi risarcirlo il morto o i parenti del morto, cioè roba la fantascienza, vero? Marco, ma di cosa stiamo parlando? Cioè entrano in casa tua e allora cosa gli dai? La sedia, lo accomodi, gli dai il caffè e quant'altro, ma che neanche si trovino a fare. Io ho la possibilità di spaccargli una certa in testa, che non ci penso due volte. No, va bene, non dico di accoglierlo, ma se lo vedi anche scappando, perché uno l'aveva fatto in continente, perché di là erano scappati, erano già in strada, e lui si è affacciato al terrazzino, gli ha sparato alla schiena, poi è stato ovviamente condannato per eccesso colposo di difesa, anzi proprio non c'era difesa lì, era proprio la volontà di uccidere, per lo sfregio avuto di che sono entrati in casa sua, lì è abbastanza grave la cosa. Va bene. Voi, la mia opinione, ha fatto bene, però ho sbagliato, non devo sparare alla schiena, devo sparare a testa. Mi ha sparato alla schiena mentre fuggivano, figurati. E vabbè, però, guarda, chi ci è passato in queste grane legate, anche benzinai, che ti ricordi che si erano dovuti difendere, perché gli stavano rapinando dell'incasso, lì ha dovuto sparare, che era sotto la minaccia armata, anche lì sì, poi magari assolti, chi lo sa, però un calvario legale, che uno dice a saperlo prima, mi sarei fatto rapina, mi sarei fatto prima di tutto magari un'assicurazione, oppure ce l'hanno già, non so come funzioni, ma piuttosto mi facevo rapinare e poi mi facevo rifondere dall'assicurazione, che erano affrontare tutti quei casini in mani che ho dovuto affrontare, perché comunque anche se viene assolto alla fine, dopo magari mesi o anni di processi ne esci logoro, psicologicamente ne esci logoro, forse anche economicamente, perché devi pure pagare gli avvocati per difenderti, oltre che ti sei difeso fisicamente con l'arma, capito? Sì, certo, vabbè, io parlo di un'abitazione, non di un locale commerciale o un locale di vendita, insomma, quello giustamente credo che sia stato anche assicurato su queste cose qua, magari non lo so come è andata a finire, non penso che ci vada più giustamente, però penso che sia assicurato una cosa del genere. Ma in casa tu cosa vuoi fare? Nel senso che ti entra dentro la finestra, tu ti accorgi e la possibilità di difenderti, dici ma cosa stai facendo qua? No. Ma lì sai, c'è quella cosa netta, se tu vedi che quello magari si spaventa e inizia a prendere la via della fuga, e lì è già sporca a sparargli addosso o dietro, però se vedi che si avventa o viene contro di te che abbia armi o meno in mano, e lì, allora lì bisogna reagire a costo, come dico io, a costo, lui si è avventato a priori, quindi tutti si arrivano, a costo di pigliare un coltello dalla cucina e metterglielo in mano e dicendo che tu sei tornato a casa, l'hai trovato col coltello, magari anche tu in mano, e si è avventato, e lì si è legittimato in teoria. Certo, allora, ho capito, io prima ti sparo, poi faccio il risultato che mi stavi aggredendo tu. Ma ti pare che sono così stupido di dire che mi ha fuggito e l'ho sparato? No, non esiste, forse ho messo dalla parte sua, ma non pare che faccio il risultato che lui stava andando contro di me. Vabbè, mai succede, per carità, perché sono cose brutte, però io credo che quando uno, un estraneo, mette il piede in casa tua, già ti si girano con i maruccoli, per non dire una parolaccia, e quindi successivamente ti devi difendere. Vabbè, Marco, non so, io ti ripeto, mai succeda, poi il caso si vedrà. Io ti devo lasciare qui, che devo proporre già al rancio con la 50 e poi dai, magari più tardi se ne avete voglia, una chiacchierata ve la faccio, dai. Ci sentiamo qui, ciao anche a tutti gli eventuali ascoltoni. Cappa, dubito rientrerò, poi mi metto un po' di TV, oggi vabbè non esco che non ho voglia, proprio sono a terra fisicamente, quindi mi metto qualcosa di mio. E attino, purtroppo vabbè io parlo adesso, non dico natalino, lui magari lo dice ma non lo fa, però ci sono un sacco di scoppiati che avrebbero il biglietto facile e sparerebbero anche per molto meno, cioè giusto per l'affronto che ti è entrato in casa, lì il problema è un altro. Ok Tino, buonasera, buon proseguimento di serata e ci sentiamo. Ciao, buona serata, ciao. Ehi, ciao, ci sentiamo.